24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Cristina Carpinelli, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le notizie dalle borse europee che segnano un avvio di settimana critico all'indomani del primo turno elettorale francese che ha visto prevalere di poco François Hollande, sfidante socialista del presidente uscente Nicolas Sarkozy. A influenzare i mercati anche le dimissioni del governo in carica in Olanda, che non ha trovato un accordo sulle misure di risanamento dei conti pubblici. A Radio 24 il commissario europeo agli affari interni Malmström dice: mi auguro che il governo italiano vada avanti sulla modifica della prescrizione e del finanziamento pubblico ai partiti. In apertura dunque le borse europee, che subiscono un ulteriore rallentamento anche a causa del mancato accordo in Olanda sulle misure di austerità e che ha portato alle dimissioni del governo in carica, una notizia che assieme alla possibile vittoria di Hollande in Francia potrebbe minare le basi del patto di bilancio europeo. I mercati chiudono dunque con ampi cali vista l'incertezza politica in Europa e i continui timori sulla situazione del debito. La probabile vittoria di Hollande al secondo turno delle presidenziali francesi e lo spettro delle elezioni anticipate in Olanda, dove il governo non ha trovato l'accordo sui nuovi piani di austerity, hanno mandato al tappeto i listini europei. Francoforte ha perso oltre il 3% e poco meglio hanno fatto Parigi e Madrid, che hanno ceduto attorno al 2,8%. Peggio di tutti però ha fatto Milano, dove FTSE MIB ha fatto registrare un meno 3,83%. Con lo spread fra titoli di Stato italiani e tedeschi salito verso i 410 punti base, le vendite hanno colpito soprattutto le banche. Unicredit e Intesa San Paolo hanno perso il 6,5%, Banco Popolare e BPM oltre il 5,5%. Peggio di tutti però ha fatto ST, affondata del 14% dopo aver annunciato un piano di ristrutturazione della joint venture con Ericsson, in base al quale si accollerà una parte dei 1700 dipendenti considerati in esubero e le attività di ricerca e sviluppo della società. Guido Maurino, da Radio Corp a Radio 24, Il Sole 24 Ore. Francia e Olanda dunque al centro dell'attenzione dei mercati, ma non solo, a monitorare la situazione anche l'Unione Europea. Un vero cambiamento per i francesi e per la Francia è quanto promette François Hollande, che vince al primo turno le presidenziali e il 6 maggio sfiderà l'attuale presidente Nicolas Sarkozy. Sentiamolo. Grâce à vous, ce soir, le changement est désormais en marche. Et rien, je dis bien rien, ne l'arrêtera. Il dépend désormais du peuple français. Nicolas Sarkozy non molla la presa e, forte dei suoi 5 anni all'Eliseo, si concentra su economia, immigrazione, lotta alla delocalizzazione, controllo dell'immigrazione e valorizzazione del lavoro. Questi i suoi cavalli di battaglia. Sentiamolo. La lutte déterminée contre les délocalisations, la maîtrise de l'immigration, la valorisation du travail. La sécurité pour eux et pour leur famille. Altro risultato incredibile è quello del partito di estrema destra di Marine Le Pen, che si posiziona al terzo posto scalzando i partiti di centro. Un risultato, quello di Le Pen, che ha destato l'attenzione europea, tanto da ricevere un richiamo da parte della Commissione, che ha ricordato di fare attenzione alla minaccia populista contraria ai valori a cui si richiamano la Commissione europea e tutte le principali formazioni politiche europee. Mi auguro che il governo vada avanti sulla modifica della prescrizione del finanziamento pubblico ai partiti. La sollecitazione dai microfoni di Radio 24 arriva dal commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström in Italia per una serie di incontri coi vertici della giustizia. L'hanno intervistata Gigi Donelli e Raffaella Calandra. Una visita italiana per parlare di giustizia, per parlare di beni requisiti, per parlare magari di una maggiore presenza nell'Unione Europea su certe vicende che hanno un impatto sull'intera società. Un'ottima collaborazione con il nuovo governo italiano e, come lei diceva, oggi parleremo di immigrazione, di confisca dei beni, asilo, vedere quelle che sono le esperienze dell'Italia in tutti questi settori e altri argomenti connessi come Schengen e integrazione. Quindi ho 2 giornate molto intense qui in Italia e sono certa che avremo un dibattito molto interessante. Commissario, buongiorno intanto. Ecco, a Bruxelles avete appena istituito una commissione europea antimafia presieduta proprio da un'italiana. Ecco, quali sono gli obiettivi? È possibile immaginare anche un'estensione ad altri paesi di una normativa più severa nella lotta alla mafia come quella che c'è in Italia, ad esempio? Questo comitato è stato recentemente insediato nel Parlamento europeo e dal punto di vista della Commissione sono molto desiderosa di stabilire una collaborazione con esso. È ancora un po' troppo presto per dire quali saranno gli impatti sui vari governi, ma sicuramente l'esistenza stessa di questo comitato e quello che farà avrà un impatto su tutti i paesi. Dal punto di vista della Commissione noi lavoriamo moltissimo con i paesi membri per cercare di intensificare gli sforzi per il contrasto al crimine organizzato e per confiscare i beni di esso, e questo è uno degli argomenti di cui io parlerò oggi, vedendo anche l'esperienza per esempio di Libera in Italia. Uno degli elementi centrali della lotta alle mafie, che sono appunto internazionali, è quella della confisca dei beni e soprattutto di andare a colpire il riciclaggio. Sì, di recente abbiamo presentato una proposta per facilitare alle varie forze dell'ordine l'operato di confisca dei beni della mafia, del crimine organizzato, facendo questo oltre frontiera, perché l'attuale legislazione ha dimostrato di essere non abbastanza incisiva in alcuni paesi. Come quindi questi soldi verranno utilizzati? Beh, questo cambia a seconda dei paesi, ma la cosa più importante per noi è che torni all'economia legale, ai cittadini, e poi diversi paesi hanno diverse leggi su come utilizzare questo denaro. Il riciclaggio, diciamo, sociale è molto utilizzato in Italia e noi stiamo vedendo varie case di buone pratiche da utilizzare anche in altri paesi. Da Bruxelles, in particolar modo dalla Greco, è arrivata in Italia una segnalazione, un invito ad una modifica della normativa sul finanziamento ai partiti e dall'altra parte anche una segnalazione per cambiare i termini di prescrizione dei reati, in particolar modo legati alla corruzione. Ci saranno altre iniziative da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia su questi specifici temi? Assolutamente, sì. Queste iniziative sono molto importanti. Mi auguro che il governo possa portarle avanti a livello di Parlamento. Sono molto importanti per contrastare la corruzione e per aumentare la credibilità dell'uso ufficiale del denaro, ma anche per le istituzioni. L'Unione Europea potrebbe imporre sanzioni se i governi del Sudan e del Sud Sudan in conflitto continuassero a non rispettare i loro impegni. Lo ha indicato a Lussemburgo il ministro francese incaricato della cooperazione a margine di una riunione dei ministri degli esteri europei in una dichiarazione approvata oggi. Questi ultimi hanno invitato i due paesi a interrompere immediatamente i rispettivi attacchi sul territorio dell'altro. È di almeno 1200 soldati sud-sudanesi uccisi il bilancio di 3 giorni di combattimenti tra le forze di Khartoum e quelle di Juba nell'area petrolifera di Eglig, proprio lungo il confine tra quelli che da un anno sono 2 stati sudanesi distinti. L'operazione militare del Sudan Khartoum è scattata dopo che il Sud ha occupato la zona petrolifera di confine, sulla quale 5 anni di trattative non sono riuscite a chiudere un accordo tra i due paesi, che condividono circa 1000 chilometri di frontiera e che in diversi punti è di fatto contesa. La battaglia ha messo in fuga la popolazione locale. Stando a fonti ONU, i profughi sarebbero già decine di migliaia. Una conferma è arrivata dalla Mezzaluna Rossa, che parla di una fuga generalizzata dell'intera popolazione del capoluogo distrettuale. A Khartoum, intanto, nel clima di esaltazione nazionalista seguita all'annuncio della liberazione di Eglig, una folla di musulmani ieri pomeriggio ha distrutto un centro protestante. Lo ha riferito un religioso, Yusuf Matar Kodi, aggiungendo che la maggior parte degli assalitori erano integralisti islamici. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24. In chiusura, una notizia che riguarda la Birmania, afflitta da anni di dittatura. L'Unione Europea attende il rilascio incondizionato dei prigionieri politici e la fine di tutte le restrizioni imposte a quelli già liberati in Birmania. Lo dichiarano i ministri degli esteri dell'Unione, che oggi hanno sospeso per un anno le sanzioni imposte alla vecchia giunta militare. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Cristina Carpinelli. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.